Bene, iniziamo. Se funziona, si sente, sì. Ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. Questo è l'ultimo incontro di Verlan, l'ultimo incontro, insomma, di un percorso che è durato diversi mesi. Percorso che si è concluso con il convegno Dire, fare, pensare il presente, che è quindi, insomma, il punto di arrivo. Verlan è un gruppo di studenti e studentesse della Facoltà di Lettere e Filosofia che nasce nell'autunno dello scorso anno e che si trascina un po' l'esperienza della mobilitazione dell'onda anomala dell'anno precedente. I movimenti spesso, i movimenti politici, spesso generano dei momenti di perturbanza che portano inevitabilmente ad una riflessione sui desideri e sui bisogni dei soggetti che vi partecipano e richiedono in qualche modo uno spazio di godimento, una sorta di volontà di soddisfare, no? E spesso, insomma, i movimenti sono le occasioni per fermarsi e per riflettere. Il progetto di Verlan, Dire, fare, pensare il presente, prende una strada un po' diversa da quella, insomma, generata nel 2008, ma in qualche modo, insomma, ne ha seguito le orme e la scia. Il nostro convegno, il nostro progetto nasce dal bisogno di capire qualcosa in più sulla realtà che si sta costruendo intorno a noi, partendo da quattro temi di forte attualità politica e sociale: il lavoro, i beni comuni, biopolitica e oggi, questo pomeriggio, l'ultimo sul linguaggio. Un filo conduttore ci ha orientato, di certo, no? A trarre le conclusioni, a organizzare tutto. Ed è, insomma, un filo conduttore composto da idee e da pratiche. L'idea principale è quella di creare uno spazio di sapere condiviso, di sapere partecipato, di riflessione orizzontale, che non accettasse passivamente il presente, ma in un qualche modo ne mettesse in questione le categorie, le decostruisse e le ricomponesse in un nuovo ordine. Le pratiche, invece, che abbiamo adottato, anche se devo dire con qualche difficoltà, si rifanno un po' a quelle pratiche di autocoscienza che sono state, come dire, teorizzate dal pensiero della differenza. Insomma, quelle pratiche che Chiara Zamboni definisce come pensare in presenza. Ripeto, non senza difficoltà e non senza sostanziali differenze, però un'eredità di quelle pratiche pare che naturalmente le abbiamo accolte dentro Verlan, o quantomeno, insomma, è stato fatto il tentativo di mettersi in relazione tutti e tutte, con tutti e tutte, in relazione con i partecipanti del convegno e le partecipanti, con i relatori e le relatrici del convegno, anche dei seminari. Lo strumento che abbiamo trovato interessante è quello di mettere a tema le quattro questioni in un ciclo seminariale preliminare al convegno, che sono serviti, i seminari a creare dei documenti scritti da noi, su cui i relatori e le relatrici si sarebbero e si sono, insomma, confrontati, ieri e oggi. E questo è stato un po' un modo di mettersi in relazione, a mio parere, ma anche un modo per cercare di sovvertire le logiche accademiche della mera trasmissione di competenze. Un modo per dire che il sapere si può e si deve partecipare, soprattutto dalla parte viva dell'università, che sono gli studenti e le studentesse. Rispetto alla sessione sul linguaggio, dapprima abbiamo fatto, insomma, un seminario, abbiamo interloquito con Paolo Fabbri, che è un docente di semiotica, col quale, insomma, abbiamo cercato di introdurre la tematica del linguaggio in relazione al potere e di capire quali modelli di analisi la semiotica offrisse alla filosofia del linguaggio, ma, insomma, anche alla filosofia tout court, per comprenderne, insomma, alla fine le trasformazioni, le metamorfosi del presente. Nel nostro ultimo seminario, invece, rispetto sempre alla tematica del linguaggio, abbiamo invitato proprio la professoressa Chiara Zamboni. Con lei, in un qualche modo, insomma, parlando di linguaggio e potere, sarebbe stato naturale, no, intraprendere discorsi di vario genere su questa tematica. E magari declinandolo sulla questione della differenza di genere. Invece abbiamo deciso di intraprendere con lei volontariamente un percorso diverso e abbiamo deciso proprio di parlare del pensiero in presenza. Certo, non sappiamo, io non so a cosa questa pratica ci porterà in futuro, però insomma in un qualche modo a me pare, ma non soltanto a me, insomma a alcuni di Verlaine, forse a tutti, pare che quella sia già una sorta di resistenza, una sorta di risposta un po' al linguaggio che tende, il linguaggio politico che tende ad assoggettare noi. Insomma, questo percorso non è stato privo di ostacoli, purtroppo l'università spesso, per usare le parole di Maurilio che ha introdotto per la prima volta questo argomento nel convegno, ha parlato un linguaggio distante dalle reali esigenze, speranze e desideri di noi studenti, un divario che va colmato se vogliamo che l'università sia un luogo in cui lo studente reciti un ruolo attivo nella formazione e nella trasmissione del sapere. D'altra parte però bisogna dire che lungo il nostro percorso abbiamo incontrato anche molti amici e amiche che hanno saputo dare sempre nuovo entusiasmo, insomma, alla nostra iniziativa. Adesso chiudo con dei ringraziamenti, essendo l'ultimo insomma, che introduce Verlaine, lasciatemi 2-3 minuti per elencare, farò proprio un elenco, però lo strumento linguistico dell'elenco, dell'accumulazione, no? dell'enumerazione, lo prendo proprio per dar corpo al lavoro fatto, insomma, un po' mi piacerebbe che fosse inteso così l'elenco, non soltanto. Insomma, chiudo ringraziando prima di tutti e tutte per la forza maieutica con la quale è riuscita a scuotere dentro di noi il senso delle cose, il senso del presente. Ringrazio per prima la professoressa Federica Giardini, la quale far parte... Mi emoziono, non sono... arrivo, veramente arrivo. La quale insomma fa parte di quegli amici e quelle amiche, no? Che ci hanno di certo aiutato nella organizzazione, sì, ma il cui pensiero, no? Ispira e ha ispirato molti di noi a lavorare su determinate traiettorie. Gettando spesso una luce euristica sul presente. Scusate, ma veramente Grazie Federica. Ringrazio tutti i relatori che hanno condiviso il progetto di Refare Pensare il Presente con Verlaine nella fase seminariale. Professor Andrea Fumagalli, professor Sabatini, le ragazze di WF di Diversamente Occupate, professor Paolo Fabbri, dottor Marco Caponera, dottoressa Michela Fusaschi, professoressa Chiara Zamboni, dottor Antonello Cervo, il quale insomma, va rivolto anche un saluto speciale. Ringrazio tutti i relatori e le relatrici che hanno partecipato al convegno, l'avvocata Lia Cigarini, la dottoressa Cristina Morini, dottor Roberto Ciccarelli, che anche a lui insomma va rivolto un saluto speciale, il professor Ugo Mattei, dottor Dario Gentili, un altro amico di Verlaine, professor Augusto Illuminati e ripeto professoressa Federica Giardini che ha partecipato al convegno, infine professor Mario De Caro, la professoressa Ida Domenigliani, dottor Davide Tarizzo e la dottoressa Manuela Fraire. Ok. Insomma, approfitto dei ringraziamenti ora per introdurre i nostri relatori, per cominciare magari a parlare di cose serie. Insomma, anche queste sono cose serie. I quali, insomma, hanno effettivamente poco bisogno di presentazioni. Il primo che presento è il professor Marramao, anche lui ci ha aiutato molto nel risolvere problemi e questioni di varia natura. docente di filosofia politica e filosofia teoretica qui a Roma 3. È difficile citare un libro, di certo io ricordo molto bene Passaggio ad Occidente, che ha lasciato un segno presso noi studenti, quantomeno a comunicazione, senza dubbio. Poi il professor Gianfranco Marrone, che ringraziamo, che è venuto da Palermo, docente di semiotica all'Università di Palermo. Tra i suoi testi vorrei ricordare Corpi sociali, che è col quale insomma è riuscito un po' a portare in Italia quello che Eric Landowski ha cercato di fare con la società riflessa, e un po' aprire il campo semiotico a una ricerca che si può definire, mi corregga se sbaglio, sociosemiotica. Poi abbiamo la professoressa Luisa Muraro, che è stata docente di filosofia del linguaggio a Verona, una delle fondatrici della comunità filosofica di Diotima, e tra i vari testi magari ricordiamo L'ordine simbolico della madre e Maglie ad uncinetto. Il cittadino professor Paolo Virno, che ringraziamo, docente di filosofia del linguaggio qui a Roma 3, e ricordo, nel senso che ricordo a voi perché io non lo conoscevo fino a qualche minuto fa, Quando il verbo si fa carne, del 2003. E anche a lui rivolgiamo un saluto speciale, grazie cittadino Paolo. Insomma, adesso sono alla fine e vi lascio l'ultimo elenco. L'ultimo elenco è quello di Verlan. Quindi ringrazio Verlan. In ordine, non è né un ordine di importanza né un ordine alfabetico, perché in un modo o nell'altro l'ordine alfabetico è già un ordine, è un ordine caotico. Grazie a Valeria Mercandino, grazie ad Alessandro Grassi, grazie a Valerio Carbone, Matteo Santarelli, Maurilio Pirone, Simona Valenti, Roberta Paoletti, Martina Fabbri, Ilaria Coccia, Clemente Lepore, Lorenzo Coccoli, Pierluigi Marinucci, Federica Castelli, Andrea Cesaritti. Grazie a tutti di cuore. Buon divertimento. Allora, grazie. Naturalmente mi associo anch'io ai ringraziamenti che Davide ha poc'anzi effettuato, ricordando anche di fare un grandissimo ringraziamento non soltanto per il contributo concettuale, ma anche per il contributo culinario a Davide Pulizzotto. E, oltre a questo, purtroppo il mio sarà un intervento un po' ingrato, perché dopo, diciamo, le cose veramente serie, che sono quelle che ha esposto adesso Davide, io devo fare un po' il personaggio austero, si vede che mi riesce bene questo comunque. Allora, veramente sarò breve, cercherò di inquadrare un pochino le tematiche che noi abbiamo sottoposto ai nostri relatori con il documento da cui appunto poi prenderanno parola. Come detto, questa è l'ultima parte di questo convegno, di questa bella avventura che si è chiamata a dire fare pensare il presente, sperando comunque che il progetto Verlan possa continuare verso nuovi orizzonti, insomma. E quest'ultima parte di questo progetto è appunto la sessione del convegno dedicata al potere e il linguaggio. Brevissimamente un riassunto del documento che abbiamo stipulato, che abbiamo creato, insomma, a seguito dei seminari che abbiamo sottoposto ai nostri graditi ospiti. Allora, potere e linguaggio è il tema principale. Potere e linguaggio, linguaggio e potere. Diciamo che è appunto fondamentale considerare che il potere si esercita anche tramite il controllo e la produzione e riproduzione di segni e linguaggi. Detto questo, un primo snodo concettuale lo possiamo trovare nel rapporto tra linguaggio ed essere. Senza essere, difatti, non c'è linguaggio, ma anche senza una mediazione linguistica non si può arrivare all'essere. Nel discorso politico, però, il nodo fondamentale sembra essere rappresentato dalla relazione tra il linguaggio e la verità. Qui il linguaggio smette di essere soltanto un linguaggio descrittivo, diventa piuttosto performativo, ovvero un linguaggio che dà forma alla realtà, che fa cose con le parole. Ma come poter ripensare il problema della verità, ovvero senza necessariamente ricadere in un relativismo politico? Cioè, si corre il rischio di essere costretti a dire che non esistono verità o falsità a prioristicamente. Il rischio contrario invece è quello di ricadere in un rigido modello corrispondentista, dove per corrispondentismo intendiamo, penso da Aristotele primariamente, una teoria gnoseologica nella quale si sostiene che la mente umana rifletta senza differenze sostanziali ciò che esiste al di fuori di essa. Linguaggio è verità, ma anche il linguaggio è menzogna a questo punto. Che peso ha la verità e che peso ha la menzogna? Mi piace sempre partire da esempi pratici, pensiamo a due casi limite. Pensiamo ad Aznar e Bush. Il primo, Aznar, mente. Ricordiamo le sue dichiarazioni circa gli attentati di matrice islamica dell'11 marzo del 2004 a Madrid. Aznar mente, viene scoperto e questa sua menzogna gli causa un'inaspettata sconfitta elettorale. Il secondo, Bush, mente, palesemente, sulle armi di distruzione di massa in Iraq. Ciononostante, pur essendo scoperto, viene rieletto per un secondo mandato. Verità, linguaggi e mezzi di comunicazione di massa. La società in cui noi viviamo è talmente permeata dalla presenza di mass media, che sono capillari, invadenti, e quindi noi non possiamo più prescindere da essi per parlare concretamente di linguaggio. Assumendo che i media non sono mai neutri e considerando che la grande maggioranza della comunicazione è ormai operata attraverso questi strumenti, la possibilità reale di un controllo compare quindi enorme. Ci appare quasi uno scenario dominato da una riproduzione senza più produzione, uno scenario fatto di linguaggi precostituiti, stereotipati, accumulati. Dal punto di vista del soggetto è chiaro che, data la tendenziale onnicomprensività del linguaggio, data la saturazione della sfera dei segni, il costruttivismo mediatico delle informazioni e la spettacolarizzazione della società, e dal punto di vista del soggetto ci chiediamo se è ancora possibile pensare a una resistenza attiva, e qui la parola resistenza torna per fortuna di grande attualità, o meglio una resistenza ma anche una riflessione, elaborazione finalmente propositiva e personale. Verrebbe alla mente perlomeno il Deleuze di Pourparler e per estensione la guerriglia semiologica proposta da Roland Barthes e poi ripresa da Umberto Eco. Come porci di fronte alla tendenziale stereotipia e la proporzionalità inversa tra qualità e quantità suggeriteci dal linguaggio? Cioè dire, se aumento la qualità del mio discorso, sembra che inevitabilmente ne diminuisca la quantità dei possibili utenti. Viceversa, se abbasso la qualità, ecco che aumento la quantità di chi può accedervi. Da una parte quindi troviamo il sapere accademico, se vogliamo ancora un sapere critico, colto, ma inaccessibile. Dall'altro il nuovo linguaggio politico, intriso di populismo, ma paradossalmente un linguaggio efficace. Del resto, in un paese come il nostro, in cui anche l'istruzione è ormai subordinata anche alle logiche del turismo, tutto sembra orientato a inibire la formazione di un'opinione pubblica realmente cosciente e realmente critica. Ci chiediamo, questo è soltanto un problema italiano? È soltanto il problema del cosiddetto berlusconismo? O invece la stessa struttura della società mondiale? Inoltre, di fronte alla tendenza alla codificazione e alla burocratizzazione operata dal sistema, che crea soltanto un depotenziamento della forza produttiva personale e che a sua volta scredita lo stesso discorso inerente alla verità, di fronte a questa insignificazione dei linguaggi, una strategia di resistenza non potrebbe essere adotta mediante una risignificazione degli stessi linguaggi? Dicevamo prima della necessità della mediazione linguistica. Ora, per fare un esempio, il pensiero della differenza in merito ci dice che la prima fondamentale mediazione ci è offerta dalla madre, che ci dà insieme vita e parola. Il patriarcato ha però cercato in tutti i modi di appropriarsi di questo doppio potere materno, quello cioè di generare e quello di dar vita a un ordine simbolico. Ulteriore domanda, come far fronte a tutto questo? Come evitare che anche l'autorità, autorevolezza materna, sia pervertita in un autoritarismo mediatico? Un ultimo tema che giustamente poniamo in essere è quello di affrontare il rapporto tra linguaggio e natura umana. Già Aristotele, del resto, definiva l'uomo come un animale politico e un animale dotato di linguaggio. Una ripresa recente di questa questione la possiamo trovare, ad esempio, nel celeberrimo dialogo e dibattito fra Noam Chomsky e Michel Foucault, dal titolo appunto Della natura umana. Uno snodo centrale di questa annosa questione, natura-cultura, che va in scena appunto nel suddetto dibattito, è correlato proprio al tema del linguaggio. Chomsky, ad esempio, parla di grammatica universale e quindi per estensione di natura umana. Foucault sostiene invece che la natura umana non esista, che sia soltanto un costrutto storico, sociale e politico. Quest'ultimo approccio, quello foucaultiano intendo, rischia per molti versi di rendere il linguaggio e i discorsi l'unico elemento determinante della realtà. I corpi, le persone, sembrerebbero quasi concludersi con l'essere una mera passività plasmata dai linguaggi. A proposito, verrebbe da chiedersi, ancora una volta, per l'ultima volta, quale resistenza è ancora possibile? Io cederei la parola alla professoressa Muraro e finisco qui. Che verità diceva, adesso parlo un po' sbrigativamente, la demonomania popolare nel passaggio dal Medioevo all'Europa moderna? È una questione importante. Che cosa ha preso alle società europee in quel periodo, dopo tanti secoli che erano di Medioevo e di relativa tolleranza del fenomeno della stregoneria, improvvisamente, eccetera? Dicevano, secondo me, la perdita di orientamento delle classi dirigenti, perché abbandonavano un'antica visione del mondo e ne cercavano una nuova, quindi perso l'orientamento, cercavano anche un capro espiatorio, chiaramente. E però dice anche il senso di impotenza delle classi popolari, che verità dice la misoginia di Nietzsche? Io leggo con interesse le cose misogine di Nietzsche, non, perché trovo che a volte dice delle cose giuste, delle cose che sento calzanti, sia pure così. Vengo a un esempio che mi interessa parecchio in questa epoca. Che verità dice il cosiddetto razzismo? La parola non è mia, però la riprendo dal gergo politico della sinistra, che per parte mia critico moltissimo, il cosiddetto razzismo delle classi popolari in Italia e in Europa. Per l'Europa vi ricordo l'incidente di Brown che parla con una vecchia signora laburista che gli dice che devono opporsi alla cosa degli immigrati, eccetera, e poi a microfoni aperti lo ignorava, dice ma che rompicoso quella signora lì, e gli analisti inglesi dicono che lì c'è stato un danno ai laburisti dalla risposta che questo dava alla vedova laburista. Ecco, che verità dice questo cosiddetto razzismo? Dice le difficoltà che ci sono a creare una società multiculturale, non a metterla in parole, a crearla effettivamente per le vie, le strade, i quartieri, i paesi, eccetera, le periferie, a creare una società multiculturale e che non finiamo nei ghetti, ma comunque non stiamo finendo nei ghetti, siamo in mezzo alle difficoltà e le accuse. E le cose, i pregiudizi eccetera sono l'espressione, e poi dice indirettamente, cosa che la sinistra dovrebbe raccogliere meglio, la protesta contro il malgoverno del mondo globalizzato rispetto al quale siamo impotenti. Dice impotenza e dice questo malgoverno che ha fatto muovere un sacco di popolazioni a destra e a sinistra in condizioni disastrose a volte e tragiche, certo. Ecco, però qui inserisco un punto teorico. Non confondiamo l'efficacia delle parole con il performativo. Mi sembra che il vostro documento ci sia, ma non solo il vostro documento. Il performativo è una nozione che non ha fatto altro che crescere di estensione, di significato. L'efficacia delle parole non è da identificare necessariamente con il performativo. Su questo punto io invito ad andare a risalire, a ricostruire come nasce la nozione, perché comincia Benveniste, che è stato nominato qui, Austin per conto suo indipendentemente conia anche la parola, al che Benveniste gli risponde, riprende, riconosce, dice eccetera, ma secondo me ristabilisce una correttezza. Comunque ci sono delle constatazioni di fatto che basta farle per avere un'efficacia impressionante, e questo non è e questa è efficacia della parola, di un linguaggio di tipo costativo, proprio dire la cosa. Il famoso il re è nudo, l'esempio classico è quello. Il re è nudo, la cosa che dice il bambino non è di tipo performativo, non lo è nel senso vero e stretto linguistico, e quindi sarebbe performativo, per chi non fosse così addentro a questa cosa, quando io dico ti prometto che verrò a fare le mie vacanze con te. Allora, questo è performativo perché ho cambiato una situazione, ho fatto una promessa e l'ho fatta con le parole. Questo è strettamente. Benvenisti invita a tenere, a contenere. Comunque, chi dà nome a un impensato o a un indicibile, le sue parole sono efficaci in quanto vere. E veniamo al tema della verità, che mi ha affascinato che avete affrontato il tema della verità, mettendolo in rapporto all'essere, in questo mostrando di aver letto a fondo Foucault, forse, perché Foucault naturalmente non è il pensiero foucaultiano, e Foucault sa che le parole sono, il linguaggio è in rapporto all'essere, ma l'essere è una parola che, insomma, eppure lui lo sa e da qualche parte lo dice. Io comunque, per venire al tema della verità, l'efficacia delle parole quando è tale si radica in una verità non detta, una verità senza regime della verità. La formula regime della verità è nota a chi ha letto Foucault, ma lo abbiamo capito. Allora io vorrei spiegare con un esempio preso da Shakespeare che cosa è regime della verità. Che vuol dire, non voglio dare definizioni, preferisco l'esempio. Nella Macbeth, atto terzo, scena quarta, è la scena in cui compare lo spettro di Banquo nella sala del banchetto. E solo Macbeth, il regicida, nuovo re, vede lo spettro, nessun altro lo vede. E Lady Macbeth si arrabatta per calmare il marito e la sua complice, e lo vede in preda a un'agitazione in un momento in cui bisogna invece fare festa, e bisogna invece essere, insomma, è appena stato fatto re. E vengono i baroni a significargli tutto quello che è l'omaggio, insomma. E lei cerca di... E allora annota in margine al testo, a uno dei testi che ci hanno consegnato il Macbeth, Shakespeare annota, dice, lo spettro deve essere recitato da un attore in carne e ossa, non da un cartone, da una figura, da una tela, deve essere da una che. Nel regime della verità teatrale questo significa che lo spettro, meglio la sua apparizione, che solo il nuovo re vede e nessun altro, è reale, realmente. Macbeth vede la sua vittima, l'amico Banco che lui proditoriamente ha fatto uccidere. Invece, quello che dice Lady Macbeth dà una specie di spiegazione scientifica che a noi andrebbe anche bene, sembrerebbe buona. Lei dice, lui fin da giovane soffre di disturbi dell'immaginazione. Ah, l'immaginazione è così. La facoltà per loro c'era e lui è disturbato in questo, che sembra quasi una spiegazione tecnica, scientifica, e questa è falsa. Nel regime della verità teatrale, che è quello che Shakespeare mette in atto questo. Questo è un episodio semplicemente per riflettere su che cosa vuol dire il regime della verità. Oppure pensate a Freud, oggi si è parlato delle isteriche, questa mattina ne ha parlato, era seduta qui, Manuela Freire, pensate a Freud che ascolta le prime pazienti isteriche, le quali gli parlano di abusi sessuali sofferti in famiglia, vengono tutte da buone famiglie del ceto borghese, sono di famiglia quasi sempre ebraica, eccetera, e dicono che ci sono stati padri o altri personaggi simili che hanno abusato di loro sessualmente. E Freud si chiede, vero o falso? Lui oscilla, è un dilemma terribile. La domanda non ha senso senza un regime della verità, che in questa fase in effetti Freud sta cercando fuori dalle pratiche terapeutiche esistenti, anche fuori dal corrispondentismo, tanto per stare al vostro linguaggio proprio un po', ma insomma, comunque è di quello si tratta, è un regime della verità di cui lui è alla ricerca. E ci vogliono quindi dei criteri di verità. Circa il modello della corrispondenza su cui vi ponete delle questioni, ponete a noi delle questioni, e di come uscire dal suo esclusivismo. Naturalmente la verità corrispondenza vuol dire semplicemente che la neve è bianca se e solo se la neve è bianca. La frase la neve è bianca, tra virgolette, è vera se e solo se la neve è bianca. Questo è un illustre logico che ci dà questa definizione della verità corrispondenza. Allora, come si fa a uscire dal suo esclusivismo? Io suggerisco semplicemente che si tenga conto che c'è una pluralità di rapporti tra cose e parole. La pluralità di rapporti tra cose e parole io l'ho illustrato in un librino che è stato anche citato, Maglia Uncinetto. Questo librino è il caso della frequentazione delle cose, del mondo da parte delle parole. L'importanza somma delle pratiche è che fanno in modo che certe realtà, certe posizioni dei corpi, certe situazioni vengano frequentate da parole significative, non ritualistiche, e che ci sia questo. E non è che sono appunto parole che stanno a descrivere la situazione e a elaborare concetti, no, sono parole che lavorano insieme alle cose, e sono le cose che lavorano, che è la cosa più importante e preziosa, sono le cose che lavorano con le parole. Questo è il mio linguaggio molto sommario, però se riflettete, poi se avete esperienza di pratiche, sapete che cosa Ecco, quando ho scritto Maglia Uncinetto, io ho teorizzato, sulla scorta di Roman Jakobson, la operazione metonimica, che è questa operazione che è del simbolico, però ottenuta appunto con la frequentazione di cose e parole. Allora, pensavo che fosse una specie di servizio questa operazione metonimica. Oggi penso invece che l'operazione metonimica, questa frequentazione di cose e parole, custodisca, poi ne parlerò alla fine, se ci sarà tempo, se no lo metterò nella relazione, custodisca le eccedenze dell'ordine simbolico. Le eccedenze. Un ordine simbolico non può stare senza, ma voi ve lo, infatti lo sapete, perché dite alla fine cosa c'è fuori dai linguaggi, dai discorsi, cosa c'è fuori. Allora, io sempre riprendo il filo di prima, che cosa è chiamato a produrre il regime della verità? Questa è una nozione foucaultiana che io trovo buona. E che cos'è verità in definitiva? Veniamo a chiederci questo. Ecco, il regime della verità, che cambiano storicamente, questo insomma, basta che pensiamo al mondo religioso da una parte, al mondo magico dall'altra, al mondo scientifico dall'altra, eccetera, vediamo che ci sono, a volte non possono coesistere. Questa mattina si è discusso molto sui saperi scientifici e in questo regime della verità così variabile, la biologia oggi occupa un posto importante e un posto, come dire, canonico per certo tipo di discorsi. Ecco, il regime della verità è chiamato a produrre credito per l'esperienza che facciamo, a rendere conto dell'esperienza che facciamo, a salvarla dall'insignificanza, grazie al fatto che questa esperienza riceve un nome ed entra così in quello che è stato chiamato il campo simbolico del linguaggio. La formula campo simbolico del linguaggio è di un linguista che si chiama Carla Bühler, ma che è pubblicato in italiano da Armando, che a me è servito per far incrociare vari. Comunque, la verità è restituzione dell'esperienza a chi la viva, grazie alla mediazione. Il regime della verità fornisce quindi mediazioni che salvano l'esperienza che facciamo. L'esperienza non è il prodotto della mediazione, mi sembra che su questo voi lo sapete. E anche se non lo dite con queste parole, ma siamo d'accordo, voglio dire, l'esperienza non è il prodotto della mediazione, o meglio, finisce certo per sembrare tale, cioè noi crediamo di vivere esperienze che sembrano i prodotti delle mediazioni, e quando la mediazione è fasulla, esperienza fasulla di una mediazione fallita. I romanzi rosa sono un grande esempio di questo bisogno e desiderio d'amore delle donne che erano spesso costrette in una vita molto confinata, e i romanzi rosa fornivano loro, come dire, mediazioni, cioè parole, immagini, figure, storie per poter salvare il loro bisogno, desiderio e i loro sentimenti. Il tema della necessità della mediazione è quello in cui mi sento più vicina a voi, a Verlaine, a questo percorso e a questo testo che ci avete sottoposto. La forza della verità, per usare un'espressione che voi usate, che io assumo totalmente come mia, come che mi piace, che mi va bene, sta nella necessità della mediazione. Laddove c'è necessità di mediazione, la fa leva, la prende forza la verità, la prende anche la menzogna, però totalmente, ma verità e menzogna, visto che citate Umberto Eco, non sono d'accordo in toto con Umberto Eco su questo punto, quando dice che le parole sono fatte per mentire, le parole sono fatte per dire la verità. E infatti voi fate una citazione di Hannah Arendt, che dice, la forza delle parole è tale che una persona dice una menzogna e poi finisce per crederci. Ecco, io non credo che Tony Blair credesse che ci sono le armi di distruzione di massa, credo che mentisse sapendo di mentire. Mi ispiro a Tony Blair per su di lui Polanski ha appena messo fuori un film che va visto, durissimo. Ecco, non credo, però i bambini sì, quello che dice Arendt secondo me vale per i bambini. E le menzogne dei bambini mi hanno insegnato delle ottime maestre, bisogna stare attenti come si tratta, perché loro dicono, siccome pensano che le parole sono fatte per dire la verità, provano a dire delle cose per fare che siano quelle vere, anche se sono puramente inventate. Ecco, lì c'è questo. Comunque la necessità della mediazione è dove prende slancio, dove attinge la forza della verità. Quello che nel vostro esempio, riflettendo sulla forza della verità, nel vostro documento portate il caso delle difformi conseguenze delle menzogne di Bush e di Aznar. Vi ponete il problema, come mai in un caso la forza della verità ha ribaltato Aznar e non lo ha fatto nel caso di Bush? Secondo me l'esempio è scelto male. Il rapporto che gli spagnoli avevano con la guerra in Iraq era ben diverso. Gli spagnoli hanno cacciato Aznar, che li aveva coinvolti in questa guerra, che li vedeva, come dire, al servizio degli Stati Uniti d'America e che gli aveva attirato le orribili bombe delle stazioni di Madrid. E questo è stato. Certo, poi Aznar, sapendo che gli spagnoli erano vicini alle elezioni, potevano fare 2 più 2 uguale 4, si è messo a mentire come Pinocchio e il naso gli cresceva, e questo certo non ha aiutato la sua causa, il suo partito naturalmente, però va vista diversamente. Gli americani hanno creduto, insomma, gli americani volevano un risarcimento, il popolo americano, non tutti per carità, volevano questo grande risarcimento per quello che gli aveva fatto Al-Qaeda. E insomma, la mia analisi è diversa dalla vostra. Io però il problema è valido, il problema temo che si risolva, non che si risolva, ma la prima cosa del problema è che la forza della menzogna e la forza della verità hanno la stessa cosa, la necessità della mediazione. La necessità della mediazione induce, cioè, naturalmente io non dico che questa sia l'ultima parola, non la penso come Umberto Eco, però la questione, ecco, la mediazione valida, non quella fasulla dei romanzi rosa, per quanto non disprezzo i romanzi rosa, non sono da disprezzare, la mediazione valida opera una ripresa. La parola viene da Elvio Facchinelli, se questo nome vi dice qualcosa, opera una ripresa del vissuto e lo iscrive in un campo simbolico come significativo, gli dà un orizzonte. Questo è stato per me il femminismo della differenza. Ah, il femminismo della differenza, con le sue idee e le sue pratiche, ha salvato in senso simbolico la mia esistenza. In senso simbolico vuol dire anche molto concreto, sapete. Ecco, come salute mentale, come gioia di vivere, come tante cose. Ecco, quando dico femminismo della differenza, io qui ho fatto un elenco di nomi, cioè vuol dire Virginia Woolf con i suoi due saggi politici, Carla Lonzi, Lia che è qui, e Lucy Rigaray. Questi sono i nomi principali canonici del mio orizzonte, ma naturalmente ce ne sono altri e altri nomi importanti. Ecco, questo è per quello che riguarda la mediazione. E qui poi ho segnato un inciso, è proprio segnato in un posto che sembra che non c'entri, ma io lo voglio fare, visto che ho per due volte fatto riferimento a come mi regolo in quello che so. E in quello che dico ho fatto un riferimento, un'allusione, ecco, lo completo. A parte la formazione filosofica che io ho ricevuto a suo tempo e che naturalmente non ho dimenticato avendo insegnato filosofia, a proposito, quella filosofia del linguaggio, il cui insegnamento mi viene spesso attribuito, non ho mai insegnato filosofia del linguaggio, però so che su internet cioè, come dire, sì, come si chiama quei personaggi fittizi che c'è anche un film intitolato, c'è un avatar, così, un avatar con il mio nome e cognome, quasi tutto quello che c'è detto là me lo riconosco, però ci sono alcune cose che il mio avatar ha fatto, la mia avatar ha fatto, per esempio insegnare filosofia del linguaggio, che io non ho fatto, ecco, per dire che insomma poi, ecco, ma non ha nessuna importanza. Ho studiato filosofia del linguaggio in un sacco di posti, certo, avrei potuto insegnare, sono andata fino a Copenaghen, sono andata a Ginevra, sono andata naturalmente a Parigi a studiare questa filosofia del linguaggio, e non sono andata a Praga per una ragione assolutamente, un incidente che mi ha bloccato sulla strada di Praga, avevo già visto, allora a Praga ci voleva insomma tanto di documento, ecco. Ma comunque quelli di Praga li ho letti tutti, perché scrivevano in francese carinamente. Ecco, a parte la formazione filosofica e con gli studi antichi, i riferimenti che mi orientano sono, da una parte, la mia vicenda biografica e politica nel femminismo, questo è una, come l'avete sentito, dall'altro è la linguistica, compresa la grammatologia, non alla Derrida, Dio mi guardi. Ecco, no, la grammatologia ha fatto grandi progressi in questi, grazie alla linguistica, la grammatologia ha fatto notevoli progressi in questi due ultimi decenni. La grammatica di oggi, io la leggo come una cosa molto interessante, insegnano eccetera. L'altra cosa che qui non ho segnato in questo inciso è l'arte della guerra di Sun Tzu, che è in verità un testo di prim'ordine. Dunque, sul tema verità e esperienza, che è chiaramente quello della mediazione, ho scritto, quindi là c'è scritto, il tema verità e esperienza è un tema che sono stata così contenta che voi avete evocato questo tema, che in genere insomma la gente cerca di evitarlo in filosofia perché è terribile, terribile e spinoso. Ho trovato un illuminante, un pensiero di Montaigne, che poi voi vi riconoscerete gli echi di Foucault di sicuro, ma Montaigne viene un po' prima naturalmente, e lo ripropongo. Egli pensava che spiegare la realtà con teorie generali, il voler trovare le cause invece di prestare attenzione alle cose, così lui si esprime, fa nascere rappresentazioni che si sovrappongono alla nostra esperienza, per cui, queste parole esatte sue, il corpo e l'anima infrangono e perdono il diritto che hanno all'esperienza del mondo, mescolandovi la pretesa della scienza. Questo pensiero a noi può suonare terribilmente ingenuo, però è un grande pensiero, perché contiene in nuce, in anticipo, una critica come quella che anche questa mattina ho sentito sviluppare, una critica del sapere scientifico che in qualche maniera ci fa come uno schermo all'esperienza. Parola che voi non usate, non è che adesso voglio farvi dire quello che... In altre parole, Montaigne afferma che la volontà di un sapere è necessario, la scienza, quindi il bisogno anche di mediazioni, perché c'è la necessità, il bisogno di mediazioni, che è fornitore delle mediazioni di valore, quelle autorizzate, la scienza, può privare il soggetto senziente e pensante della competenza simbolica per render conto lui o lei personalmente di sé, della propria esperienza. Il luogo del sapere che ha disegnato qui Manuela Freire dice bene la distanza tra quello che è il luogo del, diciamo, laboratorio scientifico e la stanza dello psicanalista, ecco, che c'è una distanza epistemologica. E io sento che Montaigne lavora, cioè la intuisce eccetera su questo terreno. Un documento filosofico che non è stato messo in una testimonianza filosofica è la polemica di Campanella contro Galileo, contro la filosofia e la filosofia copernicana. Campanella difende la vecchia teoria tolemaica con argomenti che sono importantissimi, perché lui dice a noi non consta, la nostra esperienza ci assicura che la Terra è ferma. E questa cosa merita che si torni a riflettere con rigore, perché la concezione copernicana è un colpo di dadi impressionante che su quel punto lì incide. Quanto tempo mi resta, gentile capo dell'assemblea? Forse 5 minuti. Sì. Allora dico le altre cose le dirò in futuro. Il passaggio che dobbiamo affrontare, secondo me, di capitale importanza, mi soffermo su questo, è di renderci conto fino in fondo che il regime della verità, con tutto quello che ha di inevitabile per la necessità della mediazione e di auspicabile perché si possa qualcosa di credibile essere detto, questo regime non è fatto essenzialmente per rendere la verità riconoscibile, né per farla trionfare. Questo è quello che, tra l'altro, è il mio Foucault, per cui sono grata a Foucault. Il regime della verità è inevitabile ed è auspicabile, ma non è fatto perché noi riconosciamo la verità o perché la verità trionfi. È fatto per la necessità o per la estrema utilità, poi vediamo di chi è la necessità, poi vediamo di chi è la estrema utilità, questo è un altro discorso di analisi politica. È fatto per questa necessità o estrema utilità di disporre di uno o più dispositivi simbolici che forniscano mediazioni credibili. È fatto per la produzione di credito a tutti i livelli, micro e macro, che ci sia del credito. Ieri si è parlato della società del debito, sì, ma più cresce il debito, più bisogna che ci sia credito. Se adesso si dovrà tirare la cinghia, secondo la gentile formula popolare, che la cambieremo, perché se adesso si dovrà tirare la cinghia, è per rendere credibile il debito che abbiamo, perché quando un debito non è più credibile, la Grecia è lì che è, ecco. Nel corso della sua decennale ricerca sulla storia del potere e del sapere, il già citato Foucault si è chiesto se sia possibile staccare il potere della verità dalle forme egemoniche dominanti della sua produzione, come chiese, università, laboratori, eccetera. A questo punto non occorre che egli sta interrogando la possibilità morale di questo distacco, che sarebbe la possibilità dell'indipendenza simbolica dal potere, ma sulla possibilità pratica. È possibile, che è poi una cosa che a voi interessa, siete dentro l'università e siete in un dispositivo simbolico che tende a dirvi che cosa dovete pensare e naturalmente siete sensibili a questo dispositivo. Il regime della verità, ripeto, non è affatto una cosa facoltativa da cui si entra ed esce. La risposta che Foucault dà è affermativa. Sono d'accordo con lui, cioè sono d'accordo che l'interpretazione implicita, eccetera, parla di una politica della verità. Sono d'accordo che c'è una politica della verità, che si può distaccare la verità dal suo regime. Si può. Le parole non sono, come dire, indifferenti. Non sono invece d'accordo con lui, mi riferisco all'intervista, quella che è apparsa, credo che abbia dato uno studioso italiano questa intervista, apparsa in una delle sue opere ultime. Non sono invece d'accordo con lui, e questo qui lo devo dire perché la parola torna in parte da voi. Dunque, con lui, anzi mi pare, no, voi non dite così. Comunque lui dice una cosa che mi pare da parte mia un errore, quando aggiunge: il problema non è cambiare la coscienza della gente o quello che ha nella testa, ma il regime politico, economico, istituzionale della verità. Non sono d'accordo, perché il regime che rende dicibile la verità è fatto basicamente con e per il credito, qualcosa che ha un sacco di condizioni storiche, il credito, ma che si produce oppure si perde fondamentalmente nella testa della gente. Qui lui sbaglia quando dice come si fa a, eccetera, a cambiare un regime, e la materia prima di quel regime è nella testa della gente, è laddove si produce o non si produce o si perde il credito. Naturalmente io su questo mi baso, qui mi baso principalmente su quello che ho visto accadere con il movimento delle donne, quando gli uomini hanno perso, nella misura in cui hanno perso credito nella testa delle donne come primo sesso, hanno cessato di essere primo sesso, il patriarcato non stava più in piedi, perché la perdita di credito è avvenuta nella testa delle donne. Ecco, ma come si opera il distacco dalle condizioni egemoniche? Ho detto che questo distacco non come si opera questo distacco? Allora, il pensiero, io su questo punto ho scritto, e quindi anche perché devo chiudere, mi permetto di rimandare a un libro collettivo, comunque non è solo roba mia, anzi è principalmente di altre, Politica e Immaginazione, editore Liguori, che è a cura di Wanda Tommasi, di Diotima. Allora lì la risposta è articolata lì. Come si opera il distacco? Allora, io sono, non solo io, critica con la risposta resistenziale. La risposta resistenziale, fare resistenza, è un errore di economia delle forze e di simbolica delle forze. Si resta inchiodati all'avversario. Il distacco che Foucault dice essere possibile della forza della verità dall'uso dentro un regime di verità che ha dei poteri costituiti, eccetera, questo distacco, la mia indicazione, me l'ha dato un film questa idea, questa parola, ma era nella storia del femminismo che è scritta, e si fa con la schivata, non farsi trovare dove ti aspettano, non farsi trovare dall'avversario, non restare nella traiettoria dove ti possono infilzare. La schivata, il film è di quel Franco Algerino, è l'autore di Couscous, e ha fatto questo film sui ragazzi della banlieue parigina, ed è intitolato Le Schive, ed è una straordinaria metafora, e non solo una straordinaria figura, di quello che lì accade e del fatto che, eccetera. Non mi dilungo su questo tema, ho portato gli elementi, ho detto, su quelle cose, l'ultima cosa che avevo da dire la metterò nella relazione, voleva essere una risposta alla vostra importante domanda, ma che cosa c'è fuori dai discorsi? Ho trovato questa, una risposta che coniuga alcune, che mi pare buona, ma che domanda un certo tempo per essere risposta. Non è di quelle risposte come la schivata che con una parola si fa intuire una idea, qui bisognava più lavorare, insomma. Grazie. Intanto, appunto, prima considerazione, sono anch'io onorato di essere stato invitato dentro questo laboratorio, e in secondo luogo trovo coraggioso quello che voi avete fatto, non in termini di resistenza, ma forse neanche in termini di schivata, ma in termini di rilancio, dove vi è uno spostamento anche del luogo, dell'asse, del discorso rispetto, qui sono molto d'accordo con Luisa Muraro, come per la semplice ragione che le categorie di pensiero forte che sono alla base del pensiero della differenza sono indispensabili oggi per appunto cercare di capire qualcosa su cosa è politica e cosa è potere, e è il pensiero che voi appunto promuovete, un pensiero pericoloso, un pensiero sul presente, un pensiero che va, pensiero come, appunto, come voi lo chiamate, in presenza, dove c'è bisogno di due cose, del tema del simbolico e dunque, ci ritornerò su questo punto, della mediazione, dell'eccellenza e della mediazione, e dove c'è bisogno anche però contro tendenze che io vedo nel pensiero di sinistra vagamente estetizzanti, che tendono, come dire, a risolvere nella, in una concettualità gestuale brillante una serie di nodi. Io penso che sia fondamentale battere l'accento su un vecchio tema hegeliano: la serietà, il dolore, la pazienza, il travaglio del negativo. Tutte queste espressioni che appunto coinvolgono il negativo, la serietà, il dolore, la pazienza e il travaglio del negativo. E lo dico questo perché, pur apprezzando enormemente il modo in cui il lessico lacaniano è stato riproposto da vari carissimi amici filosofi italiani e internazionali in rapporto alla politica, io trovo che questo lessico lacaniano rischi di giocare un ruolo pericolosamente estetizzante all'interno di una serie di questioni che invece vanno affrontate con radicalità, con pazienza, e vanno affrontate per l'appunto andando ai nodi del potere e della politica, che sono due campi diversi. Il potere, io stamattina ho ascoltato rapporto potere-linguaggio. Il potere io lo assumo come un fenomeno storico-naturale, intendo storico e naturale insieme, un intreccio di storico e naturale. Il potere si colloca lungo una linea di confine, è un concetto frontaliero tra l'elemento naturale e l'elemento sociale del linguaggio. È il linguaggio specificamente umano, la dimensione specificamente umana del linguaggio, che io invece attribuisco anche ad altre specie che non sono umane. E questa dimensione specificamente umana sicuramente porta con sé tutta una serie di questioni che erano state intraviste da Marx, sia pure tra varie incertezze che sono state anche dette stamattina, quando si è parlato del passaggio dall'ordine simbolico al nome del padre, appunto da parte di Tarizzo e poi anche in altri. Ebbene, io penso che se il potere è un fenomeno storico-naturale che caratterizza tutte le società umane, senza distinzione alcuna, quindi non è un fenomeno locale, va da sé, e qui è la mia linea di demarcazione rispetto a Foucault, di cui condivido profondamente l'idea del carattere generativo del potere, non sostanziale ma generativo del potere, l'idea di un potere che è diffuso quindi non localizzabile una volta per tutte in questa o quella istituzione. Ecco, la linea di demarcazione rispetto a Foucault sta nell'idea che una teoria del potere è possibile ed è necessaria, mentre per Foucault non si dà possibilità di una teoria del potere, perché il potere appartiene a una dimensione pulsionale, come dire, originaria, rispetto alla quale noi abbiamo unicamente la possibilità di esercitare resistenza, e questo naturalmente apre una serie di questioni. Ma naturalmente fermiamo un attimo questo punto e poi alla fine diciamo renderò giustizia a Foucault con una citazione alla fine del mio contributo. Io sono convinto che il potere è una particolare devianza dell'ordine simbolico, che consiste, mi farà velo la mia formazione marxiana e poi francofortese, che consiste con che appunto coincide con la logica dell'identità, con la logica identitaria, con la neutralizzazione, la marginalizzazione o se volete la stessa identica cosa, la funzionalizzazione della differenza. Pensiero metafisico, come Luisa sa benissimo, ha pensato, come dire, profondamente la differenza, ma come momento, invece come momento, diciamo, che potenzia l'identità, ad maiore dei gloria, non in qualche modo, no? Che è, appunto, che potenzia il sistema. Ovviamente questo è il limite del negativo hegeliano, che poi alla fine si potenzia funzionalmente attraverso la differenza. E allora proprio su questo punto vorrei un attimo andare al nostro presente globale. Il nostro presente globale è un presente non riconducibile ai cliché culturali tradizionali della sinistra, è un presente che richiede anzi una attenzione molto forte a quanto avviene all'interno delle situazioni locali. Io penso che uno dei limiti enormi della sinistra è stato quello di pensare che tutto quanto ormai era e si era globalizzato attraverso il miracolo del digitale, e di conseguenza i luoghi non contavano, i territori non contavano, mentre proprio perché tutto è digitalizzato, tutto è compresso spazialmente e temporalmente, i luoghi contano molto più di prima, contano molto più di prima. E naturalmente questo significa che non abbiamo compreso assolutamente nulla di quello che sta accadendo, appunto, di quello che sta accadendo nelle diverse situazioni che vengono gestite al nord Italia dalla Lega, che vengono gestite in Europa da altre forze. Adoperiamo un linguaggio inadeguato a quello che sta accadendo. E il mondo globalizzato manifesta nuove dimensioni, nuove forme del potere nell'assetto, come possiamo chiamarlo, da politica interna globale. Oggi vi è una dimensione che potremmo chiamare la dimensione di una politica interna globale, e per altro verso vi è il fenomeno che è stato chiamato di cosmopolitizzazione della vita quotidiana. Non c'è alcun bisogno che Beck sprechi tante parole per il cosmopolitismo. Abbiamo una cosmopolitizzazione della vita quotidiana che però non risolve affatto i problemi, ma determina esattamente un cortocircuito che ben conosciamo tra la dimensione globale e la dimensione locale. E abbiamo naturalmente, come dicevo, il metagioco globale affidato al digitale. Abbiamo anche però, e l'altro dato del globale, un nesso tra capitale globale e morte della democrazia. È il titolo questo di un libro di alcuni anni fa di Norina Hertz, appunto Global Capitalism and the Death of Democracy, che in qualche modo ha colto molto bene questa tematica del superamento della dimensione politica legata al lessico democratico tradizionale. Dunque le pratiche locali che diventano importanti, e dunque il bisogno per entrare in interazione con le vostre tematiche, le vostre questioni, abbiamo bisogno di eterotopie, per dirla con Foucault. Ma pochi sanno che Foucault, nelle parole e le cose, ha introdotto questo termine traendo spunto dalle anomale tassonomie di Borges nella zoologia fantastica. E qualche anno dopo, in Logique du Sens, in logica del senso, Deleuze ha recuperato, attraverso un incrocio sapientissimo come quelli che sapeva fare lui tra Lewis Carroll e gli stoici, la visione del tempo come aion in contrapposizione a Cronos, l'aion come dimensione vera del divenire come energia, potenzialità, questo elemento della potenza che non coincide col potere mi pare fondamentale, e come io dico poi aprendo la strada a una tematica che io ho cercato di affrontare, appunto il tema del Kairos. Ora, le eterotopie cosa c'entrano con il tema del rapporto, appunto, potere-linguaggio? C'entrano molto, in parte per le cose che Luisa prima ha detto, L'eterotopia inquietano. Inquietano perché minano segretamente il linguaggio, perché vietano di nominare, vietano di operare delle forme di denominazione, o come dire, univoca, di nominare questo o quello. Determinano delle frantumazioni o dei grovigli, che è la stessa cosa, spezzano e aggrovigliano al tempo stesso i nomi, devastano la sintassi del linguaggio. Lo dico questo, parlo non soltanto della sintassi che costruisce le frasi, ma parlo della sintassi meno manifesta, che tiene insieme, e qui cito ancora Luisa, la pluralità di relazioni che si intrattengono tra le cose e le parole, la pluralità di relazioni. E qui naturalmente sono d'accordissimo con Luisa ancora sulla distinzione tra efficacia e performatività, e naturalmente ho sempre considerato uno dei tratti più fecondi di Foucault il tema dei regimi di verità. Ebbene, il potere oggi, e qui il problema fondamentale, il potere oggi è eterotopico, il potere oggi è inutile, cioè non possiamo contrapporre al potere le nostre eterotopie, perché il potere medesimo è diventato eterotopico. È diventato eterotopico, se volete, pur ponendo come assioma la famosa battuta di Alice nel Paese delle Meraviglie: quando dico una parola, essa significa esattamente ciò che voglio che significhi, né più né meno, importante è capire chi è il padrone. Ma la cosa fondamentale è che noi siamo arrivati a un gioco delle denominazioni, che è un gioco delle denominazioni che procede con delle variabili che sfuggono alla possibilità di inchiodare il potere a una logica unica. Guardate bene, qui abbiamo una differenza enorme tra l'autoritarismo contro cui la mia generazione ha combattuto, quella che si è formata nella seconda metà degli anni 60, che era ancora un autoritarismo tardo patriarcale, erano come dire i colpi di coda del patriarcato, ma era comunque un autoritarismo tradizionale, e invece la padronanza del linguaggio, del potere contemporaneo, che punta a scompaginare ogni eccedenza, a scompaginare ogni auctoritas. Io, come Luisa sa, io ho trovato un momento straordinario del pensiero forte della differenza a partire dagli anni 70 del secolo scorso, nel insistere controcorrente sul tema dell'auctoritas, dell'autorità, nel senso proprio etimologico, Benvenisti insegna della radice indoeuropea aug, augmentum, incremento di senso, eccedenza simbolica, che il potere con le sue logiche traduce di volta in volta in sistemi semplici normativi differenti. E qui è il punto fondamentale. Ma non esisterebbe il potere senza questa eccedenza di senso. Ora noi assistiamo a un potere che in qualche modo neutralizza ogni eccedenza di autorità. Potere come metagioco, che detronizza le logiche dell'autorità. E, appunto, dico una cosa un pochino più concreta, perché finora mi sono mosso su un piano abbastanza categoriale. Il potere oggi dissimula la posta in gioco, rende invisibile il campo di tensione dove hanno luogo i rapporti di forza, lo rende praticamente invisibile. E qui naturalmente c'è il famoso presagio del vecchio Karl Kraus nella Vienna dei primi del secolo scorso: la distruzione del linguaggio è la premessa di ogni futura distruzione. E qui dobbiamo essere consapevoli che abbiamo a che fare oggi con la necessità di individuare all'interno della sfera pubblica non soltanto del potere, ma anche, ahimè, della, della sinistra, della cosiddetta sinistra, delle sinistre, dobbiamo cercare di individuare la circolazione di parole malate. E qui bisogna fare attenzione, noi abbiamo nel nostro presente la moduli di una neolingua che, guardate bene, che non dissimula le fratture longitudinali del conflitto perché ci ha ridotto a spettatori. Questo lo dice l'opinione media della sinistra, è quella che Hegel chiamava la scienza del cameriere, no? Cioè nel senso che dissimula le fratture longitudinali del conflitto perché ci ha ridotto a spettatori. E, ecco, invece io penso che la questione sia un'altra, che ha indotto la sindrome spettatoriale, questa sindrome spettatoriale neobarocca che in cui è precipitata la scena politica, sembra di essere nel dibattito della metà del Seicento, spectator sum in scena, non actor, sono soltanto spettatore, tutto sembra uno spettacolo. Siamo diventati spettatori, siamo caduti nella sindrome spettatoriale perché il potere è riuscito a desimbolizzare il conflitto, esattamente il contrario di quello che si dice. Cioè è riuscito a togliere al conflitto letteralmente la parola. Il conflitto non ha parola, c'è la possibilità di definire l'efficacia della parola che dovrebbe essere anche una parola puramente constativa, diceva Luisa, è sufficiente che sia constativa, ma non c'è la potenza neanche della constatazione. Siamo oltre la società dello spettacolo di Debord, è inutile che lo rileggiamo, grandissimo testo, ma un maledettissimo testo degli anni 60-70. Siamo oltre la società dello spettacolo di Debord, noi siamo dentro un plesso che non riusciamo assolutamente a sciogliere di merce e potere, la merce che diventa immediatamente potere, il potere diventa merce, guardate bene, cioè il potere si regge a discapito della merce, la merce si regge a discapito del potere, vi è una circolazione continua, che è la stessa circolazione che ha caratterizzato il capitalismo moderno, oscillazione tra principio di mondialità e principio di territorialità, si leggono l'un l'altro. Merce e potere, forma di merce e appunto statualità. E questo è l'effetto sortito dalla modularizzazione del linguaggio, da quello che io in passato, Ida se lo ricorda bene, un articolo sul manifesto chiamato lo iato che si è determinato tra materiale e simbolico. E questo rende completamente nuovi tratti del neopopulismo mediatico. Il mio vecchissimo amico Ernesto Laclau ha costruito un bellissimo, come dire, bello paradigma del populismo in cui dice il populismo significa costruzione politica del concetto di popolo, perché sociologicamente non si dà. Bene, il neopopulismo mediatico di cui noi siamo un'avanguardia in Italia, bella soddisfazione, decostruisce il concetto di popolo in audience. È la sistematica decostruzione del concetto di popolo in audience, che si fonda su questa forbice che si è aperta tra materiale e simbolico. Questa forbice determina vistosissimi effetti di, qui uso termini un po' classici, di rimozione delle identità. Le identità rimosse si ripresentano sulla scena pubblica in forma reificata. Le forme di gruppi identitari, logiche identitarie, al limite anche fondamentalismi e via dicendo. Cioè le identità reificate non sono altro che l'effetto delle identità rimosse. Abbiamo voglia di prendercela con la Lega, con le leghe varie. Ma intanto questo è accaduto e accade in una delle regioni più ricche d'Europa. Se è accaduto vuol dire che qualcosa è sfuggito nel rapporto tra materiale e simbolico. Sbaglio o non sbaglio? Lì è il nodo fondamentale. Questo vuoto tra materiale e simbolico, sa va a dire qui Lacan, docet, figuriamoci, ho tenuto relazioni, sono amico di Jacques Alain Miller, della figlia di Lacan, eccetera, ho fatto varie relazioni in convegni internazionali lacaniani, è un punto di non ritorno, anche se secondo me bisogna tenere conto di una cosa, che Lacan è una geniale elaborazione a partire dalla prima topica freudiana e non dalla seconda topica freudiana. E qui appunto quello che diceva Manuela Freire mi pare molto molto importante. Ma sicuramente il vuoto che si apre fra materiale simbolico è occupato, sa passandir, dall'immaginario. Ma anche lì nell'immaginario bisogna guardare quale immaginario, qual è il regime di verità che ci relaziona all'immaginario. E quello che Luisa diceva prima mi pare veramente bellissimo e magistrale, ma lo dico non è un complimento, è una constatazione. Ora noi abbiamo questo vuoto occupato dall'immaginario che opera fin dentro la struttura del desiderio. Quindi è una cosa diversa dalla manipolazione che operava a valle. Qui si opera a monte, non a valle. Si determina una scissione tra godimento e desiderio. Abbiamo una società del godimento senza desiderio. Del godimento senza desiderio, che è esattamente il fenomeno che determina la cosiddetta eternizzazione del presente, nella forma dell'attuazione a ripetere, dove, guardate bene, il corpo ritorna centrale nella sfera pubblica, ma come metafora del potere. Il corpo è centrale, ma come pura metafora del potere. Qui naturalmente voglio venire verso la fine del discorso, e la fine del discorso mi pare sostanzialmente questa. Io penso che almeno il senso generale della questione che voi avete voluto mettere in campo, dell'esigenza che voi avete posto è quella di un ripensamento del comune, almeno dal mio punto di vista, ripensamento del comune. E noi siamo vissuti nella modernità, e non soltanto nella caricatura dei Chicago Boys o del neoliberismo a partire dalla fine degli anni 70. Noi siamo vissuti con l'idea che il comune fosse il fine, l'obiettivo finale. Il comune è viceversa la condizione di pensabilità dell'agire, delle relazioni, esattamente il contrario di quella. E il comune come obiettivo finale significa che vi è un continuum tra l'individuo, cioè il principio moderno di sovranità, diciamocela tutta, indifferente che il principio moderno di sovranità sia applicato all'individuo, che sia applicato allo Stato o che sia applicato anche alla comunità nel senso organico del termine. La comunità organica è individualistica esattamente come l'individuo singolo, non c'è differenza. E allora, ecco, il problema è che il comune, il comunismo, come io odio gli ismi ormai, ma diciamo che l'essere in comune, quello che un tempo si chiamava il comunismo, non può essere il risultato progressivo, no, di una filosofia della storia che comincia con l'affermazione dell'individuo moderno. Questo non accade. Il principio di sovranità moderno è tutto dentro la storia del capitale, che oggi è divenuta la storia del capitale globale. Questa storia va invertita. Non abbiamo una logica del processo che ci aiuti. Occorre spostare il fuoco sui soggetti. Occorre abbandonare l'alibi dell'oggettività. Noi viviamo le teorie comuniste sono vissute dentro un individualismo statalismo metodologico e anche dentro un colonialismo imperialismo metodologico. anche con delle forme di esplicito razzismo, no? Che c'erano, che avevano molti esponenti del comunismo sovietico, in parte anche del comunismo cinese nei confronti delle altre culture. Quindi il problema è superamento del paradigma della sovranità, superamento del paradigma identitario. Il paradigma identitario oggi lo ritroviamo in una retorica della libertà dove il comune è ciò che residua, mentre esattamente l'inverso è: prima si deve stabilire il ventaglio del comune, dei beni comuni, dopo eventualmente stabiliamo qual è il nostro spazio di libertà. E ciò che è comune, ripeto, non è sostanza, ma presupposto della relazione e dell'azione. Non fine, ma se volete, movimento reale che abolisce lo stato delle cose presenti. Movimento reale, ritorniamo. Detto questo, bisogna fare questo per... Si può fare questo, a mio parere, soltanto a una condizione. Alla condizione, e questo lo dico perché io all'epoca della politica ideologica, no, non ce l'ho, grazie. All'epoca della politica ideologica sono stato, Ida se lo ricorda molto bene, uno che ha fatto battaglie durissime per il disincanto della politica. Oggi penso che battere sul tasto del disincanto ancora significhi portare acqua al mulino del cinismo dominante, e dunque ritengo che oggi è all'ordine del giorno l'idea, come sanno alcune delle mie studentesse e dei miei studenti, l'idea del reincantamento della politica, un reincantamento della politica che deve tornare a essere l'orizzonte di senso dell'agire individuale e collettivo, orizzonte di senso non della vita ma dell'agire individuale e collettivo, l'agire individuale e collettivo. E qui naturalmente però la politica è due cose insieme, non una. La politica è relazione, praxis, processo, arte. La politica però anche evento, capacità di cogliere i segni dei tempi. La passione politica del presente non la si guadagna se non c'è un elemento messianico, se volete profetico. Ci vuole una carica di, come dire, di profezia e di messianismo dopo il disincanto. Non a caso l'ultimo Lacan ha lavorato sulla funzione della religione nel mondo contemporaneo, temi che lui si affronta ormai da tempo, che io ho cercato di affrontare sin dai primi anni Ottanta, a partire da Potere e secolarizzazione, perché è un tema questo, il deficit simbolico del politico era stato occupato, surrogato, in senso buono dico, non negativo, in senso buono dalle religioni, in senso buono. Quindi la politica come processo, praxis, anare, interrelazione, la politica come evento, Machiavelli, cogliere i segni dei tempi, il kairos, intervenire tempestivamente, decisione tempestiva. Se non si mettono insieme queste due cose, al di là di paura e speranza, come voi scrivete, che sono delle passioni tristi. E qui finisco citando Foucault, che prima ho strapazzato, ma che in realtà amo moltissimo, come si può amare un padre o un fratello maggiore che se n'è andato via anzitempo, dopo averci accompagnato per anni nelle nostre riflessioni. Foucault, l'ultimo Foucault, un intervento che è stato pubblicato nel 1 luglio 1984, anno della sua morte, da Liberazione, dove Foucault sembra rivedere la sua idea negativa sul diritto e sembra aprirsi a una dimensione che dal punto di vista della sua formazione era tutt'altro che estranea, del rapporto tra diritto, latitudine dei diritti al plurale e latitudine della potenza dei soggetti che, spinozianamente parlando, sì, associano, si organizzano. Vi leggo queste frasi perché sono molto belle e per rendere omaggio a una straordinaria figura di intellettuale. Esiste una cittadinanza internazionale, non sembra neanche Foucault, sembra il mio amico Rodotà. Ma invece Foucault, esiste una cittadinanza integrale che ha i suoi diritti, i suoi doveri e che obbliga a insorgere contro ogni abuso di potere. Chiunque ne sia l'autore, quali che siano le vittime, in fondo siamo tutti governati e in quanto tali solidari. I governi, che pretendono di occuparsi della felicità delle società, si arrogano il diritto di considerare in termini di profitti e perdite la sofferenza umana provocata dalle loro decisioni o permessa dalle loro negligenze. Non sapeva nulla, naturalmente, della macelleria del decreto Tremonti. È dovere di questa cittadinanza internazionale rivendicare sempre agli occhi e agli orecchi dei governi le sofferenze degli esseri umani, poiché è falso che non ne siano responsabili. La sofferenza degli esseri umani non deve mai essere un residuo muto della politica. È il fondamento di un diritto assoluto a rivoltarsi contro chi detiene il potere. Questo è il messaggio. Pausa, però non di più, poi ritorniamo.